Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. Ciao a tutte e tutti e benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Fermata Provvisoria, rubrica del martedì all'interno di Fuscico Factory per dare spazio e voce ad artisti emergenti. Nella puntata di oggi intervisteremo Paolo, musicista degli Electric Circus. Gli Electric Circus sono una band che si forma in Trentino alla fine del 2013 come trio e nel corso del tempo collabora con numerosi musicisti, alcuni dei quali sono poi entrati in pianta stabile nella formazione. Nel 2014 pubblicano il primo EP, Evoluzione, registrato al Metro Rec Studio di Riva del Garda. Alla fine del 2016 il gruppo parte per un tour negli Stati Uniti, dove si esibisce in California, Arizona e Colorado. Compone e registra un brano, dal titolo Mike, presso il Dust and Stone Recording Studio di Tucson. Dal 2017 la base della band si sposta a Torino, dove oltre alla musica i membri degli Electric Circus si interessano ad altre forme d'arte. Nasce così 24 Settimi, un progetto multidisciplinare che comprende musica, poesia, pittura, design e fotografia, pubblicato nell'aprile 2017 in seguito ad una campagna di crowdfunding. Ma adesso andiamo ad ascoltarci uno dei pezzi degli Electric Circus e poi torniamo per farci due chiacchiere con Paolo. Funk degli Electric Circus e ora siamo in collegamento con Paolo, che salutiamo. Ciao Paolo. Ciao Adele, e buonasera a tutti e tutte. Ciao, grazie per essere qua con noi oggi. Grazie a voi per averci invitato. Paolo, tu sei il batterista degli Electric Circus, vuoi raccontarci un po' chi sono gli Electric e cosa fate? Sì, certo. Ecco, io sono il batterista degli Electric Circus, appunto, e è un progetto che ormai ha 7 anni di vita. È nato come un trio tra le montagne trentine, eravamo all'inizio batteria, basso, chitarra, e poi col tempo insomma abbiamo arricchito il nostro progetto di numerose collaborazioni, sia musicali che anche artistiche in senso lato, perché abbiamo collaborato anche con pittori, poeti, vabbè. E alla fine ci sono aggiunti in pianta stabile altri 3 componenti e quindi adesso siamo in 6 e oltre a noi c'è anche un sassofonista, un altro chitarrista e un percussionista. E niente, facciamo musica strumentale, soprattutto funk, psichedelico, dai, possiamo definirla così. Ci piace questo termine. E afrobeat, non so, queste sono un po' le definizioni che racchiudono e sintetizzano il nostro genere e la nostra musica, ecco. Noi abbiamo appena ascoltato Kinna Funk, che è una canzone dall'album Canicola, uscito nel 2018, giusto? Sì. Vuoi raccontarci un po' l'uscita di questo disco? Com'è nato? Sì. È nato, è uscito nel 2018, appunto, con New Model Label, che è un'etichetta che ha creduto nel nostro progetto e niente, ci ha supportato sia nella fase precedente all'uscita e poi anche quella successiva attraverso promozione e su varie testate giornalistiche, quindi insomma siamo usciti assieme a loro. È un album che, rispetto forse a quelli precedenti, più caratterizzato dal groove, diciamo, nel senso che nei precedenti lavori abbiamo inserito brani che hanno delle strutture un attimino più ricercate, un pochino più complicate, con numerosi stacchi, così. E invece in Canicola abbiamo deciso di puntare soprattutto sul groove, quindi trovare dei pezzi che potessero girare il più possibile, eliminando appunto tanti stacchetti, cercando di puntare soprattutto sul ritmo e soprattutto sul ritmo, ecco. Quindi sono tanti brani, soprattutto ballabili, poi ce ne sono anche 2 un attimino più intimi e riflessivi, però diciamo che è soprattutto un album molto ritmico e destinato al ballo. Infatti soprattutto in situazioni live abbiamo trovato gran piacere a suonare appunto questi brani, perché era sempre una cosa diversa, perché poi suonando e soprattutto in live nascevano ogni volta spunti differenti. È sempre stato divertente suonarlo e spero anche per il pubblico insomma sentire i brani. Uno dei miei brani preferiti di questo album è Mr. P.U. Ti chiedo se questo titolo riprende da un grande classico dello scenario jazz, che è un classico di John Coltrane, Mr. P.C., se c'è qualche collegamento tra questi due titoli. Sì, hai colto perfettamente, cioè, è una citazione ovviamente voluta, Mr. P.C., però è appunto Mr. P.U. e sarebbe Mr. Paolo Urbani, che sarei io. Tra l'altro io ci sono due Paoli nel vostro gruppo. Sì, esatto, ci sono 2 Paoli, di solito appunto lui viene soprannominato col cognome per differenziarci, ecco. Comunque quando è stato scelto questo titolo era perché non sapevamo come chiamare il brano. Tutti così quasi per battuta hanno detto lo dedichiamo a te, indicandomi, solo che io non ero molto convinto, anzi ero completamente contrario alla cosa, mi sembrava esageratamente autoreferenziale, però alla fine la mia era una posizione di minoranza e quindi alla fine è passato il titolo e è rimasto Mr. Pew. Questo titolo tra l'altro rimanda, appunto, come dicevamo prima, a un grande classico jazz, come un po', diciamo, tutta poi la vostra musica, perché come dicevi anche tu è una musica molto ballabile, ma che è un misto tra musica jazz, musica funky, afrobeat. Voi vi ispirate a qualche artista in particolare nel vostro complesso? Allora, diciamo che abbiamo, cioè, assolutamente ci sono grandi riferimenti anche alla musica jazz. Il nostro in realtà è un progetto che parte riproducendo e suonando standard jazz, quindi diciamo che la nostra formazione è sicuramente quella. Poi appunto col tempo ci siamo evoluti e il nostro suono ha preso anche da altri mondi, da altri generi. Facciamo tanti ascolti sia, diciamo, di gruppo, abbiamo una chat condivisa dove ci suggeriamo reciprocamente nuovi artisti e poi in realtà ognuno ha i propri artisti preferiti. Se posso, non so, sicuramente penso a Fela Kuti, che è un po' il simbolo dell'afrobeat e ultimamente è quello che più ci ha ispirato, insomma, sia come ascolti ma anche proprio come sonorità. Io parlo per me personalmente, Tony Allen, il batterista storico di Fela Kuti, è una grandissima fonte di ispirazione perché offre quotidianamente spunti di groove interessanti da studiare, da provare a replicare aggiungendo qualcosa di nostro, quindi posso dire sicuramente Fela Kuti, ma come lui tanti altri, Groundation, un altro gruppo reggae, che però anche lì fanno sia reggae ma c'è anche tanto jazz e anche quello sicuramente ci ha ispirato, non so, questi ecco potrebbero essere gli artisti che mi vengono in mente adesso. Visto che questo pezzo che abbiamo citato è dedicato a te, direi che ci andiamo ad ascoltare Mr. Pew degli Electric Circus. We'll be right back. Mr. PU degli Electric Circus. Noi siamo in collegamento con Paolo, a cui volevo fare ancora qualche domanda. Dopo il periodo di pandemia che abbiamo vissuto, in qualche modo stiamo vivendo ancora adesso, mi viene da chiedere a un musicista come avete vissuto voi come gruppo di sei elementi, quindi un gruppo abbastanza numeroso, questo momento di lockdown. Allora, è stato sicuramente, cioè ha modificato e ha ovviamente imposto una revisione completa dei nostri piani, perché avevamo in programma insomma l'uscita di due nuovi singoli e anche una collaborazione, insomma una seconda collaborazione che ha dovuto ovviamente inevitabilmente, cioè è stata, abbiamo dovuto rimandarla, ecco. Però oltre a questo è stato anche un momento, diciamo, dal punto di vista creativo, stimolante, nel senso che questa lontananza forzata, perché io adesso vivo a Bologna mentre gli altri sono tutti in Torino, non abbiamo avuto la possibilità di trovarci, però ci ha obbligato in un qualche modo ad organizzarci di conseguenza, e abbiamo iniziato a imparare ad utilizzare diversi sistemi di registrazione. Abbiamo iniziato un po' a registrarci per conto proprio e ormai da 2 o 3 mesi stiamo lavorando a distanza, inviandoci idee di brani, e ormai abbiamo quasi concluso 2 o 3 brani nuovi proprio attraverso questo lavoro a distanza, che è risultato molto, molto utile. Ha aiutato sicuramente la nostra fase creativa, perché appunto adesso padroneggiamo tutti sia le tecniche di registrazione che poi anche i programmi che permettono di registrare. Sarà sicuramente una cosa che tornerà utile. Ovviamente se non ci fosse stato il lockdown, in generale questa pandemia sarebbe stato meglio per tutti, dico per tutti proprio, e anche per noi, il nostro piccolo. Però siamo riusciti comunque a trarre, diciamo, degli aspetti positivi anche da questa situazione estremamente negativa. Tu prima hai citato 3 brani che avete, diciamo, composto e prodotto in pandemia. Ti chiedo se ci sono dei progetti futuro per gli Electric Circus in cantiere. Sì, abbiamo appunto, ci sono 2 singoli che dovranno uscire, ma non abbiamo ancora idea di quando usciranno effettivamente, anche perché dobbiamo ancora registrarli. E poi in realtà c'è un altro progetto importante che prenderà a breve vita, insomma, e solo che non possiamo ancora, diciamo, pubblicizzare la cosa, perché non spetta a noi renderlo pubblico. Sarà una sorpresa. Quindi, sì, è una sorpresa, diciamo che sì, è una sorpresa, quindi invitiamo magari a seguirci sui nostri social per poter rimanere aggiornati. Quindi rimaniamo con questa sorpresa. Paolo, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e salutiamo tutti gli Electric Circus sparsi per l'Italia. Va bene, grazie mille a te Adele e a tutti voi, insomma, di averci invitati. E quindi grazie. Nella speranza di potervi venire ad ascoltare presto live ad un concerto, e quindi ancora grazie Paolo e a presto. A presto, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.